scrittori italiani di fantascienza hanno sempre meno fantasia e ripropongono sempre stancamente delle formule che ci impediscono un po' di capire davvero qual è il panorama più aggiornato della produzione e delle insomma, tendenze oltre Atlantico. In particolare ci sono settori interi che vengono un po' penalizzati, per esempio da noi il fenomeno del cyberpunk è stato in fondo conosciuto in modo molto limitato e in fondo soltanto tramite le opere di due o tre autori. Ciò nonostante bisogna dire che anche in settori di scrittura più tradizionale qualche cosa di buono, qualche cosa di potabile si può leggere, in questo periodo si può diciamo conoscere e soprattutto ci sono una serie di editori medi diciamo totalmente nuovi o alcuni vecchi che si sono diciamo buttati, che stanno diciamo tentando di fare un discorso anche loro sulla fantascienza, attraverso i quali qualche testo può essere diciamo recuperato. Parleremo le prossime settimane poi di questa collana appena uscita, nuova, della Sterling & Kupfer. Quello che vorrei segnalare oggi è il catalogo di una casa editrice come Interno Giallo, che ha una produzione principalmente, come dice il nome stesso, di gialli, di mystery, di insomma appunto thriller, ma che dopo i primi titoli un po' stanchi comincia a mostrare una sua dimensione, una sua fisionomia più chiara anche sul terreno della fantascienza. Ecco, mi riferisco in modo particolare a questo tomo, a questo librone che è appena uscito da pochi giorni in appunto libreria, edito da Interno Giallo, che si chiama Chung Kuo, Il Regno di Mezzo, è di David Wingrove e rappresenta il primo volume di una serie di ben 8 volumi, a diciamo dimostrazione del fatto che ormai anche nella scrittura e nella insomma letteratura popolare di diciamo consumo il modello della serialità televisiva ha fatto scuola e quindi tutti seguono questo andazzo di scrivere questi lunghi cicli. Però questo ciclo si diciamo presenta con un certo interesse. Fin dal titolo si capisce che Chung Kuo è la storia di un mondo futuro, siamo nel XXIII secolo, quindi a circa 250 anni dalla nostra epoca, nel quale la Cina ha preso il dominio del mondo e domina completamente tutto il mondo conosciuto. Ci sono una serie di... l'opera è chiaramente fantascienza, anche se ha fatto discutere i critici sul fatto se sia futurologia, fantascienza, eccetera. Questo David Wingrove, che è un personaggio molto molto interessante, ha soltanto 36 anni e da pochissimo tempo ha interrotto una brillantissima carriera di manager bancario per mettersi a scrivere. Ha scritto una storia della fantascienza molto molto bella insieme con Brian Aldiss, che è la riedizione del vecchio Billionaire's Spree di Aldiss, che è stato riedito e riscritto da Aldiss e da questo Wingrove insieme col titolo di Trillions e Eras Spree. Speriamo che qualche editore lo voglia affrontare il compito di tradurlo in italiano. E poi si è dedicato da circa 5-6 anni alla stesura di questa enorme opera gigantesca, di questa storia futura del mondo, diciamo centrata sul problema della Cina. Si tratta, vi dico subito, naturalmente di un modello di scrittura nettamente agli antipodi di quello di Gibson, tanto per intenderci, o comunque di quello cyberpunk, di quello fortemente innovativo. È una insomma, scrittura piana, tradizionale, però direi molto, diciamo, sapiente, con grande maestria. Il tipo di opera è il thriller politico, è la costruzione di una storia politica sociale dell'umanità, e a quello che appare da questo primo suo volume il tema fondamentale è l'opposizione cambiamento-stabilità, cioè la classe, insomma, dirigente cinese, i sette signori del mondo, delle grandi aree in cui è diviso il mondo, sono per il mantenimento di una stabilità rituale codificata secondo le tradizioni cinesi, gli occidentali che hanno addirittura perso la memoria di avere avuto in passato grandi, diciamo, civiltà, addirittura che hanno dominato il mondo, hanno perso completamente, si vedrà poi nel corso del libro perché, questa memoria, però mordono il freno e vorrebbero introdurre il cambiamento. Quindi ci sono tutti gli elementi del thriller politico e appunto sociale, scritti con uno stile abbastanza accattivante, ripeto, anche se tradizionale. Il libro si fa leggere con molta presa sul lettore, anche se, come secondo il modello delle cose televisive, è molto intricato e pieno di personaggi. Comunque è una lettura raccomandabile, 388 pagine al prezzo di 24.000 lire, Chung Kuo, Il regno di Medley, di David Wingrove, editore Interno Giallo. Sempre per rimanere nell'ambito di una scrittura tutto sommato tradizionale, a una nuova gloria della fantascienza, mi piace affiancare una vecchia gloria, una appunto vecchia gloria del calibro di Fritz Leiber, che è un nome che tutti gli appassionati conoscono. Ci sono due libri di Leiber in questo momento nelle librerie. Uno è una ristampa di un vecchio libro ormai introvabile, il famosissimo Conjure Wife, che non è propriamente fantascienza, è una specie di horror fantasy soprannaturale, ma è un libro molto molto molto famoso, gli è stato dato il titolo italiano di Ombre del male, e tale titolo si ritrova anche in questa nuova ristampa, in questa nuova edizione. Invece l'altro è una novità, ed è sempre però del genere heroic fantasy, non del genere fantascienza classica. Si chiama Il cavaliere, il fante di spade, e per molti appassionati sarà un bel ritorno di un ciclo abbastanza noto, che è quello del mondo di Newcomb, che è una specie di, potremmo dire, di satira, di parodia dell'era iboriana di Conan, centrato sulle due figure del gigantesco Fafhrd e del Greymouser, che è il suo l'acchiappatopi grigio, che è il suo accompagnatore, insomma, tradizionale. Queste sono due o tre racconti e un romanzo breve, praticamente più di metà del libro è preso da questo appunto romanzo, che è il Greymouser che va sottoterra, e sono stati scritti fra il 77 e l'88. E sono stati raccolti in volume nell'88, escono quest'anno in italiano. Io vi confesso che non sono un estimatore del genere heroic fantasy, che trovo personalmente piuttosto noioso, ma ho sempre invece apprezzato, proprio per questa carica ironica che Leiber ci ha infilato dentro, questo ciclo di Fafhrd e del Greymouser. Sono delle doti, sono delle caratteristiche che si ritrovano anche in questo nuovo, insomma, volume. La cosa migliore direi che è certamente il romanzo, cioè questo Greymouser sottoterra. Il libro è edito, come anche l'altro, dalla editrice Nord e costa 12.000 lire, i soliti libri in brossura, per esattamente 302 pagine, quindi anche qui la spesa è contenuta. Per quanto riguarda Conjure Wife, invece, anche qua c'è Ombre del Male. Anche qui la Nord ha da poco, da qualche mese, messo sul mercato una nuova collana che raccoglie libri di fantasy, libri di horror, eccetera, e probabilmente per sfruttare un po' giustamente un settore di mercato che non copriva ancora, però si limita in gran parte in questo caso a ristampare vecchie opere, più qualche novità però di cui parleremo le prossime volte. Questo Ombre del Male vale la pena di, insomma, guardarlo, vederlo, perché Leiber ha una mano scorrevolissima ed è abbastanza divertente vedere questa storia di streghe nella quotidianità, insomma, e a me il clima di questa cosa ha ricordato un po' quello di Rosemary's Baby, insomma, di cose, di opere di questo tipo in cui c'è il male che aleggia non in improbabili scenari lontani, ma su queste cittadine così tipicamente americane. Qui ci sono professori universitari, middle class, e poi sotto sotto invece succedono cose terribili, tra cui scambi di anime nei corpi, personalità doppie, eccetera eccetera, con un finale che è davvero, devo dire, sorprendente, che naturalmente non, di cui non parlo neanche per accenni, perché viene veramente imprevisto alla fine di questo libro. Bene, per oggi è tutto e arrivederci alla prossima settimana. Diverso. Era un fisico matematico nel senso più completo e più chiaro del diciamo termine. Infatti la sua matematica spesso non è elegante, spesso è un po', come dire, pasticciona, raffazzonata. Nella sua Meccanica Celeste si trovano spesso frasi tipo "sarebbe facile vedere che", "si può facilmente vedere che". Ora, sul fatto che si possa tanto facilmente vedere ci possono essere dubbi. Forse lui aveva effettivamente